Vi segnalo anche il libro Piccola storia dei Peanuts di Simona Bassano, edizioni Donzelli. Siamo in chiusura, un'ultima segnalazione sempre dal mondo della scienza e per così dire per la società. Vi ricordo il libro del professor Massimo Fagioli, Religione, Ragione e Libertà, edizioni L'Asino d'Oro. Si tratta della trascrizione di un ciclo di lezioni tenuti nel 2009 all'Università di Chieti. Fagioli spazia a 360 gradi tra storia, politica, economia, letteratura e ovviamente psicologia e psichiatria, le sue materie di base. Fagioli da 40 anni pratica quella che lui stesso chiama analisi collettiva, cioè delle sedute che sono anche delle lezioni in cui ciascuno può parlare dei suoi problemi oppure di quello che considera un problema della società. Fagioli ha influenzato molti intellettuali, registi, anche uomini politici, ultimo dei quali Fausto Bertinotti, e anche un mecenate, nel senso che ha aiutato la fondazione di ben due case editrici, una rivista e una libreria. Sentiamo una battuta di Fagioli sul suo lavoro. Io sono stato sempre ai margini, perché scelsi a 18 anni di non fare politica ma fare il medico, fare medicina per fare psichiatria, per capire cos'era la realtà umana. Questo pensiero di ricerca continua sulla verità della realtà umana, particolarmente quella che chiamano inconscia, quella detta da subbewusste, cioè inconoscibile, quindi non era oggetto così di considerazioni come fosse una parte deteriore della realtà umana, è entrata nella cultura e forse ha toccato anche la politica. Ecco, ricordiamo quest'ultima segnalazione, Religione, Ragione e Libertà di Massimo Fagioli, edizioni L'Asino d'Oro. Vi ricordo l'indirizzo del nostro sito www.radio.rai.it/GR Parlamento per il podcast della trasmissione e poi la nostra pagina Facebook, pagina in frequenza, per lasciare i vostri commenti. Alla parte tecnica ringrazio, saluto Edmondo Cotta, un saluto da Alessandro Forlani.